Fuori di noi, trasmissione sugli oratori e sul mondo giovanile, a cura di Noi Associazione e Blu Radio Veneto. Bentornati sulle frequenze di Blu Radio Veneto con il programma appunto settimanale Fuori di noi, dedicato al mondo degli oratori e al mondo giovanile. Ai microfoni, Anna. Ciao Cristian, ciao, ciao a tutti. Ciao Anna e il sottoscritto appunto Cristian, che per qualche appunto settimana, per qualche anno, insieme con tanti collaboratori sta portando avanti questo progetto, collaborazione nata tra Noi Treviso, Noi Padova e Noi Venezia, per parlare di oratori, per parlare appunto di circoli e per parlare di queste realtà che sono in continuo aumento. Anna invece è rappresentante ufficiale della CR diocesana di Treviso. Anna appunto da qualche settimana ci accompagna, diciamo, in questo tour, in questo viaggio che stiamo facendo alla scoperta, nel raccontare, diciamo, tutto questo mondo variegato che è quello dei circoli oratori, noi associazioni facenti parte appunto della grande famiglia Noi. E Anna appunto sei qui appunto da qualche settimana anche perché stiamo appunto portando avanti un progetto che proprio in questa puntata noi concretizzeremo, è vero Anna? Sì, verissimo. È appunto il progetto portato avanti dai ragazzi dell'Azione Cattolica diocesana, quindi alcune parrocchie di tutta la diocesi, ecco, sono venuti già alcuni appunto qui alla radio per registrare il loro contributo sulle attività che fanno durante l'anno, in particolare quelle che permettono loro di incontrare meglio e più da vicino Gesù. Una collaborazione appunto concreta, fattiva, che vuole anche un po' evidenziare l'importanza dei mezzi di comunicazione diocesana. Abbiamo, tutte le diocesi hanno un settimanale e tutte le diocesi si sono messe insieme per realizzare, per concretizzare anche un mezzo radiofonico che è appunto Blu Radio Veneto. Noi abbiamo invitato queste realtà ACR a venire qui in studio, sono venute con entusiasmo, hanno fatto tante domande, hanno conosciuto gli ambienti di questa radio e hanno dato un personale contributo che entrerà ogni settimana a far parte di Fuori di Noi, vero? Verissimo. Quando andiamo in onda, Anna? Adesso ti interrogo subito. Sì. Allora, noi andiamo in onda il sabato alle 14 e la domenica alle 12.30 su Blu Radio Veneto. Se qualcuno volesse inviarci delle informazioni, magari qualche foto, magari appunto qualche contributo, qualche bel progetto che all'interno della comunità, della parrocchia stanno realizzando, basta mandare un'email. Qual è l'email, Anna? Sì, allora mandare un'email a fuoridinoi@libero.it. Oppure anche mandare un sms, se qualcuno vuole scriverci, ecco, al 320-6146-964. Sono tanti appunto gli appuntamenti, tanti programmi, tanti progetti che noi cerchiamo in qualche maniera di raccontare, non soltanto dando la notizia, ma interrogando, intervistando anche dei responsabili. Anche in questa puntata, oltre al contributo preziosissimo dei ragazzi dell'ACR, poi sveleremo da che paese provengono, chi sono, eccetera, abbiamo anche il contributo di un circolo, di un oratorio non soltanto della diocesi di Treviso, ma appunto cerchiamo ogni settimana di alternare, andiamo a Venezia, andiamo a Vittorio Veneto, andiamo a Vicenza, andiamo a Padova, insomma anche quest'oggi abbiamo un ospite sorpresa che presenteremo, diciamo, nella seconda parte della trasmissione, senza, diciamo, però l'ausilio, l'accompagnamento tecnico, diciamo, professionale, il gusto e la simpatia anche del nostro regista che salutiamo, Eddie Daici, questa trasmissione sinceramente, Anna, se fosse per me non andrebbe in porto perché sono abbastanza fuori in questo senso. Certamente sei anche un po' più ordinata e mi tieni un po' calmo, ma appunto abbiamo sempre bisogno appunto della regia, quindi ringraziamo la regia e la salutiamo. Tanti altri appuntamenti che però potete tranquillamente trovare mentre ci state ascoltando anche sui siti, perché ricordiamo che ogni territoriale, ogni realtà Noi sta, diciamo, potenziando i propri siti, tanti sono anche portali, quindi basta cliccare www.noipadova, noitreviso, noivenezia, noivittorio veneto oppure noiassociazione.it per vedere cosa bolle in pentola anche di informazioni a livello fiscale, a livello tecnico, progetti che possono essere portati avanti con contributi anche statali, perché ricordiamo che il circolo, l'oratorio Noi, non è soltanto un oratorio ma è un APS, associazione di promozione sociale, che a pieno titolo può far parte di bandi regionali, statali e addirittura europei, quindi non perdiamo, diciamo, queste possibilità anche e soprattutto in questo periodo dove c'è una situazione molto difficile dal punto di vista economico e tanti oratori magari avrebbero voglia di fare qualcosa ma non hanno la possibilità di chiedere o di avere delle risorse ingenti. Ma noi iniziamo subito allora con, diciamo, il primo momento della nostra trasmissione Fuori di Noi, che è, che cosa, Anna? Una canzone scelto appunto dagli amici della CR di Spercenigo. Qual è la canzone? Meglio prima di J-Ax. E allora vai bello! E allora J-Ax a farmi ridere. Oh, oh, era meglio prima. Era meglio prima, dice quello con la nostalgia, come se fosse colpa mia che non tromba dai tempi di Maria Maria. Meglio prima andare al cinema era meglio prima. Scuola, moda, panorama espresso, moca, cola, coca. Succede anche alla diva, quando arriva la nuova velina non è mai buona come quella prima, ma a fine stagione sembra più figa. Meglio adesso che la rete ha svincolato la pornografia, o meglio prima con Cicciolina, con il pitone e il cavallo. Ma quando non c'erano gli MP3 io mi facevo la cassettina. Meglio prima, ma quanto prima? Quando abitavamo nella cascina, quando facevamo la prima col fiocco azzurro e la preghierina. La cartolina che ti spediva a fare il soldato, che è una gran bella esperienza, tale per il mio amico che si è sparato. Nella mia classe girava tutto e di più, contrabbando come a Cancun, ed il mio bullo se l'è spassata, senza denunce, senza YouTube. Bene, ritorniamo in studio dopo aver sentito appunto la prima canzone degli amici della CR di Spercenigo e abbiamo al telefono l'ospite di questa settimana, Don Alessio Dal Medico del Circolo di Chiampo. Vediamo, sei in linea. Don Alessio, ci sei? Sì, ci sono. Ecco qua, ciao Don Alessio. Allora, ogni settimana noi, innanzitutto Cristian e Anna qui al mio fianco, che è responsabile della CR diocesana, ci presentiamo un attimino perché tu non eri, diciamo, in linea nella prima parte della trasmissione. Don Alessio, allora presentati un pochettino, da dove vieni, che realtà, diciamo, ci presenti in questa puntata? Sì, ciao a tutti, come dicevo sono Don Alessio, ho 27 anni e ormai da un anno e mezzo quasi mi trovo qui a Chiampo come vicario parrocchiale. Il mio compito in particolare è quello di affiancare, accompagnare ragazzi e giovani nella nostra realtà dell'oratorio, accompagnarli nella loro vita di fede attraverso le attività, i giochi, le proposte formative. Ecco, seguo un po' quello che viene comunemente definita la pastorale giovanile della parrocchia. E Don Alessio, vorrei chiederti perché ha ancora senso parlare di oratorio nella società di oggi? Ha ancora senso parlare di oratorio perché l'oratorio è un luogo di incontro, un luogo di aggregazione, forse è l'unico posto a mio avviso dove riescono ad incontrarsi per stare insieme persone di diverse generazioni. Fino a qualche tempo fa, se penso al nostro oratorio, al nostro bar, per mancanza di volontari rimaneva più di qualche volta chiuso, ma è stato proprio facendo circolare l'idea dell'oratorio come luogo di aggregazione e luogo di incontro che siamo riusciti a ripartire con un discreto numero di volontari, la maggior parte genitori dei ragazzi, che si occupano della gestione del bar. Ecco, adesso i genitori al sabato pomeriggio, portando i loro ragazzi alla CR, al catechismo, alle varie attività, si possono fermare per fare quattro chiacchiere. La domenica mattina dopo la messa qualcuno passa per la colazione, i giovani dopo la messa delle 11 si fermano per un aperitivo promosso dalla campagna del meno alcol e più gusto. Ancora la domenica pomeriggio si è costituito questo piccolo gruppetto, ecco, di genitori che per due domeniche al mese propone un film canottone per i ragazzi assieme, ecco, a dei popcorn. Tutte iniziative, insomma, che ci aiutano a capire che l'oratorio non è tanto proprietà privata del cappellano, del prete, ma è di chi lo frequenta prima di tutto, della gente, della comunità. E nella misura in cui lo si percepisce come un ambiente familiare, si trova anche il coraggio, la voglia di proposte che mirino allora all'aggregazione, al fatto di dello stare insieme. da qualche tempo anche i ragazzi delle superiori, i ragazzi delle tappe giovanissimi, si sono offerti per fare il servizio del bar. Un bel segno questo, perché credo significhi che quel luogo lo sentano appartenente, vicino anche alla loro realtà. E questo è un successo, Don Alessio, il fatto appunto di aver coinvolto i giovani e renderli protagonisti e anche responsabili di un ambiente, come hai detto tu, che non è appunto esclusivo di qualche gruppo, ma devono sentirlo proprio di tutta la comunità parrocchiale. Certo. Tu l'hai un po' già detto appunto nella presentazione delle attività, ma volevo un po' soffermarmi, visto che la Chiesa italiana, ma stiamo tutti, non soltanto la Chiesa italiana, oggi fermandoci a riflettere quest'anno, ma forse per diversi anni, sul tema, diciamo, dell'educazione, che è una sfida, no? Si parla tanto di sfida educativa. Oratorio, educazione, dimensioni che nella vostra realtà stanno a braccetto, hanno un legame particolare. Come vedi, diciamo, queste due realtà nella tua comunità di Chiampo? Oratorio e educazione. Certo, penso all'oratorio e all'educazione come un rapporto complementare, perché credo non sussiste un oratorio senza offrire educazione ai ragazzi, e nello stesso tempo anche l'educazione ha bisogno di quei luoghi concreti in cui esprimersi, e penso che l'oratorio, assieme a tutte le altre istanze educative, la scuola, la parrocchia, il mondo dello sport, ecco, l'oratorio è un luogo perfettamente adatto per iniziare a educare. E secondo te, Don Alessio, in base alla tua esperienza, qual è la maggiore difficoltà dei giovani d'oggi e anche la maggiore difficoltà degli adulti oggi? Bella domanda, difficile da sintetizzare, però penso che la maggior difficoltà sia quella dovuta alla fatica del capirsi a vicenda. Forse gli adulti oggi fanno un po' più fatica ad amare ciò che amano i giovani, i loro spazi, i loro modi di vestire, la loro musica. Nello stesso tempo i giovani fanno fatica ad amare quello che amano gli adulti, soprattutto se questo è frutto di una mentalità, di un modo di fare che ormai non è più del loro tempo, dei loro giorni, ma comincia ad essere passato. Certo. Don Alessio, 10 anni di Noi Associazione quest'anno. C'è qualche progetto che state portando avanti? State investendo quest'anno? Magari avete scelto, diciamo, di impiegare risorse umane, economiche in qualche nuova attività o, diciamo, ristrutturando ambienti, pensando, diciamo, a un nuovo spazio per fare qualcosa di nuovo all'interno della vostra realtà? Oppure state pensando a una piccola festa? O la fate già, diciamo, comunemente? Avete una festa dell'oratorio annuale? Sì, qualche tempo fa, proprio a maggio, abbiamo realizzato una piccola festa dell'oratorio con appunto i ragazzi, gli animatori della nostra parrocchia. Abbiamo fatto di recente una bellissima festa, un bel momento di festa dedicato alla figura di Don Bosco. Ecco, la mattina del 31 gennaio ci siamo recati alla nostra stazione delle Corriere con icona di Don Bosco, e lì assieme abbiamo proposto ai giovanissimi che aspettavano il pullman per recarsi nelle varie scuole un breve momento di preghiera a Don Bosco, ripetuto, ecco, nelle diverse fasce d'orario che coincidevano con i vari arrivi e partenze delle Corriere. Gli animatori poi salivano sul pullman e consegnavano un semplice e simpatico cartoncino con un invito alla casa di Gesù, così l'abbiamo chiamata la nostra chiesa, per la messa della sera. E poi nell'oratorio abbiamo realizzato appunto i tornei di calcetto, ping pong, PlayStation e Wii a schermo gigante, il karaoke. E invece per i più piccoli, per i ragazzi più piccoli, fuori dalla chiesa c'era un giocoliere che con i suoi numeri, con il fuoco, ha saputo intrattenere e stupire appunto genitori e ragazzi. Ecco, penso sia stato davvero bello e sia stata una grande soddisfazione per tutti, anche per i ragazzi stessi della comunità, vedere volti incuriositi di questi giovanissimi, la stazione per la preghiera del mattino. Una proposta, se vogliamo, un po' fuori dagli schemi per iniziare la giornata. Come è stato altrettanto bello vederli protagonisti nella Santa Messa e poi, ecco, a riempire proprio i luoghi, le stanze, il bar dell'oratorio per divertirsi insieme. Ecco, di idee credo ce ne siano a bizzeffe, occorre però, ecco, a volte saperle mettere in gioco, condividerle, farne oggetto comune, pensare, programmare, organizzare insieme, ecco, tra animatori, sacerdoti, genitori. Tenendo un po', direi, sempre presente quanto diceva Don Bosco, oggi in molti dicono di amare i giovani, ma non tutti sono disposti ad iniziare ad amare quello che i giovani amano, per poi aiutarli ad amare valori di portata gigantesca. Ecco, queste dimensioni di festa noi tentiamo di organizzare, di pensare, a partire proprio da quello che amano loro, da quello che amano i giovani. e sappiamo che appunto i giovani sono anche molto creativi e entusiasti, quindi ho una domanda che stimola la creatività. E se dovessi descrivere l'oratorio con un oggetto, quale sceglieresti e perché? Dicevo appunto che a maggio, in questa festa dell'oratorio, alla comunità abbiamo proposto anche una piccola attività ai ragazzi, anche disegna il logo del nostro oratorio, dove chiunque poteva proporre un logo. Ecco, sono arrivati davvero dei disegni bellissimi, ma uno ne abbiamo scelto in maniera particolare che presentava la scritta del nostro bar, l'Arnold, appunto in memoria del mitico bar del film Happy Days, e accanto a questa scritta sì, compaiono tre diversi ingranaggi di dimensioni diverse e di diverso colore. Ecco, Simone l'autore così ha motivato la sua scelta, diceva appunto che gli ingranaggi così piccoli ma nello stesso tempo così utili, pensando agli ingranaggi di un qualsiasi motore, essi rappresentano un po' rispetto al tutto una componente molto piccola e a volte invisibile, e che può sembrare perfino inutile. Se però anche uno di soli di questi ingranaggi lavora male, tutto il motore ne risente in un certo senso. E nello stesso tempo l'ingranaggio più piccolo, come quello più grande, fanno il loro lavoro e lo svolgono bene, trasformando allora il loro girare in energia utile e quindi preziosa. Per questo ecco un po' il logo del nostro oratorio è diventato appunto questa scritta Arnold con questi tre ingranaggi di tre diverse dimensioni, di tre diversi colori, che ci ricordano un po' l'integrazione anche delle varie generazioni, fasce d'età che lì si trovano, i ragazzi, gli adulti e gli anziani. Bene, Don Alessio, avremmo voluto farti altre domande, diciamo in scaletta avevamo pensato altre cose, ma appunto il tempo è un po' tiranno. Io volevo solo chiederti un piacere, innanzitutto ringraziarti per la disponibilità che ci hai dato anche in così breve tempo, ma volevo chiederti grazie anche se possiamo risentirci magari fra qualche settimana per risentire un po' la vostra età, visto che hai nelle tue risposte dato diversi spunti, no? A parte la collaborazione, la coltivazione, l'impegno di questi ragazzi, ma anche poi la riflessione che hai fatto anche sulla frase di Don Bosco, che amare i giovani vuol dire amare anche cosa fanno i giovani, cioè senza portarli dalla nostra parte per forza, ma avvicinarci verso di loro e capire anche le loro attese e le loro aspettative. Quindi certo, ci riserviamo, Don Alessio, di risentirci magari più avanti, anche perché ripeto, la chiacchierata mi pare sia andata molto bene e hai offerto diversi spunti anche da approfondire. Grazie Don Alessio e buon lavoro nella tua realtà di Chiampo, va bene? Grazie a voi, buona continuazione. Grazie, grazie molte. Ringraziamo allora Don Alessio Dal Medico del Circolo di Chiampo, che ci ha dato appunto la sua disponibilità per questa intervista, per raccontarci un po' di questa realtà. E adesso è il momento della seconda scelta musicale della CR di Spercenigo. Ai se ci pego. Se va! Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Ai, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein? Um sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Teima! Sábado na balada, o quê? A galera começou a dançar e comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein? Giovanna, allora abbiamo sentito questa realtà di Chiampo, un prete, un sacerdote, appunto vicario di questa parrocchia di Chiampo, molto attivo, molto anche entusiasta. Sono riusciti veramente a fare un oratorio nel senso appunto più pieno del termine, cioè a intrecciare relazioni tra generazioni, e questo diciamo è l'obiettivo finale, lo scopo che tutti gli oratori hanno. Non sempre appunto è così facile, ci vuole fatica, ci vuole anche tempo, ci vuole però soprattutto la motivazione e la passione. Ma adesso, Anna, mi pare che siamo arrivati quasi al clou, diciamo, della trasmissione. È un terzo tempo, ma potrebbe essere anche il primo tempo di Fuori di Noi, perché abbiamo appunto la collaborazione fattiva, concreta, appunto dei ragazzi della CR. E allora, come per iniziare, diciamo, noi cerchiamo un attimino anche di aprire questa rubrica, Anna, perché quest'anno il tema della CR nazionale è sì, punta in alto. E allora proviamo a sentire un po' la sigla e la colonna sonora di quest'anno di ACR. Questa era la sigla appunto della CR nazionale, Si vola in alto, e noi abbiamo appunto pensato di creare una rubrica che diciamo racconti come la CR vola alto nella propria comunità, e fare anche da parte loro appunto creare una piccola carta di identità, vero Anna? Sì. Anna, vero. Adesso proviamo a sentire chi sono i primi ospiti di quest'anno a Fuori di Noi, i primi protagonisti. La CR ragazzi, allora diamo la parola a loro. Ciao a tutti, siamo i ragazzi della parrocchia di Spercenigo e ci chiamiamo Sara, Angelica, Giorgia, Gabriele, Valentina. E partiamo subito con la carta d'identità. Nome del paese: Spercenigo. Parrocchia: San Bartolomeo. Comune: San Biagio di Callaita. Numero di abitanti: 1500 circa. Parroco: Don Paolo Furlan. Età: 39 anni. Gruppo in parrocchia: Azione Cattolica, ACR 6, 8, 9, 11, 12, 14, ACG, classe superiori e gruppo educatori. ACR. Sabato pomeriggio dalle 3:30 alle 5 in oratorio. Siamo in circa 60 più 11 educatori. I nostri educatori sono? Sonia, Chiara, Arthur e Alessandro. ACR a noi piace perché è un modo speciale per incontrare i nostri amici. Prima di tutto ci piace perché siamo in compagnia e abbiamo la possibilità di discutere temi diversi nelle attività. Poi ci piace perché siamo con Gesù e scopriamo l'amore che ha per noi e come possiamo voler bene alle persone che ci stanno intorno. E scopriamo ora come puntano in alto i nostri amici di Spercenigo. In oratorio si vola alto! Le attività principali durante l'anno. Il nostro anno associativo si apre ad ottobre con la festa del Ciao. Durante l'anno abbiamo alcuni momenti fissi, come la festa della pace, che faremo tra 2 settimane, cioè il 12 febbraio. A marzo di solito facciamo l'esperienza spirituale di Tiberiade. Ci troviamo, come sempre, il sabato pomeriggio, poi rimaniamo a dormire in oratorio e andiamo a casa domenica dopo la messa. In questa esperienza impariamo a stare con Gesù, con l'aiuto dei nostri educatori e del parroco. A maggio c'è il convegno diocesano e durante l'estate i campi scuola. Gli aderenti in parrocchia a Spercenigo sono in totale 93, circa 60 alla CR e il resto alla CG. Nel nostro ultimo incontro CR di sabato scorso abbiamo parlato del valore delle nostre decisioni. L'attività era una specie di test. nel quale abbiamo scoperto se le nostre scelte, in diverse situazioni, erano coerenti o meno. Questa attività era inserita in un progetto più ampio, che è quello del Mese della Pace, che tratta i diritti dei bambini. In oratorio si punta in alto. Frequentando la CR abbiamo scoperto la presenza di Gesù nei nostri amici e nei nostri educatori. Con le attività e passando del tempo insieme siamo cresciuti sia nei legami di amicizia sia nel rapporto speciale con Gesù. Ora noi abbiamo solo 12 anni, ma il nostro obiettivo è mostrare a degli altri che lo stile di vita cristiano, anche se giovane come noi, non è una cosa impossibile. Benissimo, allora sentiamo appunto dagli amici di Spercenigo anche un saluto finale, contento, gioioso, entusiasta. Hola, hola lo Spercenigo! Hola, hola lo Spercenigo! E allora hola hola a tutti i nostri radioascoltatori, ci risentiamo la prossima settimana con Fuori di Noi, sempre e solo su Blu Radio Veneto, vero Anna? Verissimo! Allora ciao a tutti! Ciao ciao! Fuori di Noi, trasmissione sugli oratori e sul mondo giovanile, a cura di Noi Associazione e Blu Radio Veneto.